Mix 24 di Giovanni Minoli. Il meglio di Enrico Vanzina, 65 anni, romano, sceneggiatore, scrittore e produttore. Con il fratello Carlo sono una coppia inossidabile del cinema italiano. Figlio del grande Steno, autore tra l'altro di Un americano a Roma, di Se dice sono malinconico. Ama i bei libri, i quadri d'interni del 6-700. È un italiano all'antica, ma che sa leggere fra le pieghe di una società che cambia. Ama il canottaggio e dice: tra i signori se ogni tanto vinco ancora le gare. Adesso ha scritto un ultimo libro dal titolo Il mistero del rubino birmano. Protagonista il detective Max Mariani, la sua passione per la vodka e le donne a pagamento. Ecco Vanzina, le donne anche nei suoi film sono spesso sopra le righe, perché? Perché le donne devono far sognare il cinema. Ma nella vita che cosa cerca lei in una donna? Un'emozione. Lei ha detto: amo da 35 anni mia moglie, con le altre sono stato superficiale, cioè? È solo lei che mi ha dato le vere emozioni. Ma superficiale vuol dire egoista? Non credo. Ma preferisce scrivere romanzi o sceneggiature? Sono due cose completamente diverse. Scrivere un romanzo significa rivolgersi ad un pubblico che è completamente diverso da quello del cinema, e questo per chi scrive il cinema disintossica. Ma sono qualità che possono essere intercambiabili? Cioè, voglio dire, c'è un rapporto fra le due cose? Io penso di sì, scrivere è una cosa unica. C'ha tante facce nel modo di manifestarsi. Esattamente. Invece di scriverli, i cinepanettoni adesso li produce? Ma io in realtà non li ho mai scritti, i cinepanettoni. Quando li facevo io con mio fratello Carlo si chiamavano film di Natale. Ma chi li ha chiamati per primi cinepanettoni? Un giornalista dispettoso. È un termine orribile, però spesso, da quando non l'abbiamo più fatti noi, questi film erano abbastanza orribili, per cui probabilmente ci stava un po'. Un po' di cattiveria fa bene. Senta, lei è nato in una famiglia di intellettuali e dice: mi sento un intellettuale, cioè? Guardo la realtà ragionando. Questo è essere intellettuale? Penso di sì. Suo fratello racconta che insieme voi due avete fatto, da ragazzi credo, un viaggio in Francia sulle tracce di Proust. Poi da grandi avete fatto, non saranno stati cinepanettoni, ma erano fichissimi, sotto il vestito niente, insomma, eccetera. C'è un rapporto fra le due cose, fra il viaggio, la ricerca di Proust e questi film? È sempre un modo di essere intellettuali. Nei suoi film c'è una descrizione caricaturale del milanese di successo, diciamo così. Secondo lei è il simbolo del cafone, quel personaggio? Ma non era tanto caricaturale, era un momento in cui alcuni milanesi si comportavano così, ma noi abbiamo raccontato in maniera più, diciamo, caricaturale forse qualche romano. Certo, dopo naturalmente. Sì, sì, sicuramente quelli erano milanesi di Cortina. Sì, quel milanese lì che è interpretato dal compianto Guido Nichelli è stata una grande invenzione, e credo che molti milanesi si sono riconosciuti in quella simpatia un po' bauscia che aveva, però anche profonda. Era uno che diceva delle massime. A me stava simpatico, a me tutti i personaggi che noi raccontiamo stanno simpatici. Anche tutti simpatici? Sempre, anche, questo è il segreto della commedia. La commedia non deve assolvere i vizi, ma deve voler bene le ragioni degli altri. Senta, lei ha detto che il cafone contemporaneo è compiaciuto, tragico, consapevole di aver esportato un modello di successo. Lei l'ha sdoganato in qualche modo, lo dice, insomma, con questo affetto lo ha... Beh, ma lui però crede di aver vinto, in realtà ha perso, perché ha trascinato tutto il paese in una mediocrità cafona della quale paga lui stesso le conseguenze. Senta Vanzina, ma è anche l'eterna lotta dei nati bene contro gli arricchiti? C'è un po' questo nei suoi film? No, assolutamente, le ripeto, no. Le ragioni degli altri sono sempre quelle che comandano. Nati bene cosa significa? Non lo so. No, insomma, una famiglia importante che aveva una casa frequentata da gente, sì, che faceva della cultura un valore. L'unica cosa che ci hanno insegnato a casa nostra è che si può migliorare leggendo dei libri e imitando quelli molto più bravi di noi. Senta Vanzina, lei è romanissimo, però ha vissuto a lungo tra Roma e Milano. Che cosa non le piace, se c'è qualcosa che non le piace proprio di Milano? Non mi piace il loro modo un pochettino calvinista di insegnare al paese la morale. E quello che le piace invece? Giorgio Armani. Senta, suo fratello non è di Milano, proprio Milano, ma insomma, mamma. Suo fratello Carlo ha detto che il tifoso della Roma, maniaco della squadra della Roma, nel primo film Vacanze di Natale, in realtà era Giovanni Malagò, l'attuale presidente del CONI, è vero? Giovanni Malagò è molto tifoso della Roma, in realtà guardate, come diceva Flaubert, adesso saliamo un po' di livello, saliamo. Madame Bovary c'est moi, ero io. Quindi va bene, quindi tutti i personaggi dei film sono sempre personaggi in realtà che magari non si riconoscono ma che sono quelli della realtà della vita. Certo, chi fa la commedia deve soltanto guardare. Solo guardare e raccontare con una penna come la sua. Senta, Vanzina, ma la Roma, la squadra di calcio, per lei è sempre un grande amore, eh? Enorme. Sì, soprattutto perché mi dà spesso delle delusioni, per questo è una cosa, un po' di masochismo, quasi, fa bene alla salute. È un melodramma veramente italiano. Ecco, Vanzina, lei ha raccontato che la domenica, da tifoso, partiva sul treno degli ultra della Roma per andare in trasferta. Però leggeva Hemingway di nascosto nel gabinetto per non dare spiegazioni di quello che faceva ai suoi compagni di viaggio. Ma fino a quando l'ha fatto? Fino a quando non mi riconoscevano, poi ho fatto un po' di televisione. Si è rovinato. È stata una tragedia. Non ha più potuto andare. No. Ma allo stadio ci va sempre, però. Ci vado spessissimo proprio con Giovanni Malagò. Senta, ma le piace questa versione americana della Roma? Ma come figlio del regista di Un americano a Roma mi intenerisce un po'. Spezzo di sì, insomma, siamo in un mondo globale. Preferiva Di Noviola. Senta, Vanzina, il presidente della Roma, Pallotta, l'americano, dice che bisognerebbe giocare una partita di calcio dentro il Colosseo. È un'idea da protagonista di un film di Natale? Sì, è un'idea di marketing. Devo dire che fa anche un po' sorridere. Ma le piacerebbe? Beh, insomma, perché no? Vedere una partita dentro il Colosseo, se potesse smontare tutto, questa è un'idea. Senta, Vanzina, lei ha detto: ho fatto film volgari per dimostrare che c'è volgarità in questo paese, però c'era bisogno di una scoperta, diciamo. Ma io in realtà non ho fatto mai dei film volgari. Ci sono dentro dei nostri. Ha detto lei. Sì, ho fatto dei film volgari nel senso che ci sono dei personaggi che rappresentano la volgarità. Ce n'era bisogno? Io penso di sì. Questo paese si è accorto molto in ritardo che stava andando su una china sbagliata. Noi con Carlo già nell'82-83 avevamo fotografato quello che sarebbe successo. Ma chi ce l'ha portato su questa china? Ma ce l'ha portato una borghesia che non ha mai avuto il coraggio di esserlo, soprattutto una borghesia romana, che non ha mai investito sulla cultura, non ha mai capito, mentre in Francia e in Germania i borghesi sono fieri di esserlo. Qui c'è Ma perché hanno fatto la rivoluzione? Qua no, a qui Roma no. E poi erano un po' in soggezione rispetto all'aristocrazia. Il loro grande scopo era ti fa sposare il figlio con una principessa. Senta, Vanzina, lei comunque questi cafoni, diciamo così, in qualche modo. È ossessionato lei da cafoni? No, a me mi interessano i suoi film, mi piacciono molto, quindi li ha raccontati nell'arco di 30 anni. Mi interessa come sono cambiati questa tipologia di persone che avete raccontato così bene. Hanno vinto. E qual è il film a cui lei è più legato di quelli che ha fatto? Sapore di mare. Perché? Perché era l'unico film in cui c'era un 20% di autobiografia. E la cosa, avendo i capelli bianchi, adesso mi intenerisce un po'. Poi c'era anche tanta speranza in fondo. Sì, certo. Tornando indietro, guardando indietro. Ma ce n'è uno invece di cui si è pentito di aver fatto? Sì, forse uno che abbiamo fatto con Paolo Villaggio dopo un grande successo, che era Io non speak English, un film molto carino. Andammo a fare un film a Tokyo, si chiamava Banzai. Ah, sì. E lo andammo a fare in realtà perché Paolo voleva mangiare cucina giapponese. Ah, sì, quindi sì, che ve l'hanno concesso. Sì, il film è una vera schifezza. Devo dire però che ho scoperto che la cucina giapponese, stando a Tokyo e girando a Tokyo, è veramente una cosa seria. Una cosa seria, quindi. Molto seria, ma soprattutto a Tokyo. A Roma no. No. Ecco. Senta, Vanzina, suo fratello ha detto che i suoi tre film irrinunciabili sono Intrigo internazionale di Hitchcock, Sentieri selvaggi di John Ford, Una vita difficile di Dino Risi. Ecco, i suoi quali sono? Ma credo che siano A qualcuno piace caldo, Lawrence d'Arabia e La grande fuga. Senta, Vanzina, le è mai capitato di uscire dal cinema e pensare questo film avrei voluto farlo io? Molto spesso. Per fortuna. È l'ultima volta che le è capitato? Proprio l'ultima. Beh, insomma, una importante delle ultime. Match Point di Woody Allen. Ma qual è la differenza tra la Roma della grande bellezza di Sorrentino e la Roma dei Vanzina? Che la nostra è vera. E la sua è finta? No, è una trasposizione artistica, diverso. Ma lei baratterebbe 50 milioni di incasso al botteghino per l'Oscar, eh? No, quando ero più giovane li avrei barattati per Brigitte Bardot. Ho letto che ha passato molto tempo sulle sue ginocchia, è vero? Mio fratello, il più di me. Suo fratello, più fortunato. Sì. Senta, ma il cinema è una forma d'arte che secondo lei è indissolubilmente legata al Novecento o eterna? È una forma di racconto nuova sicuramente, per cui è difficile scenderlo dal Novecento. Però il cinema sta cambiando moltissimo, non cambierà il racconto immagini parole. Ma perché gli effetti speciali in realtà stravolgono il cinema? No, quello che ha stravolto il cinema è il ritmo e la dinamica del racconto proprio. Oggi non siamo più in grado, perlomeno la nuova generazione, di seguire un racconto che partiva generalmente da una costruzione di romanzo dell'Ottocento, certo. Per cui una costruzione classica. Oggi il racconto è frantumato, per cui è quello che ha cambiato completamente il cinema. Noi della nostra generazione ci troviamo un po' in difficoltà a seguire dei film che i giovani invece vedono con un occhio completamente diverso. Come se fosse il loro modo di raccontare, insomma, di vedere. Ma e gli effetti speciali in questo senso hanno accentuato questa possibilità? Ma gli effetti speciali sono una conquista, tutto quello che tecnologicamente una possibilità in più. Una grande possibilità, sì. Senta, ma è giusto che lo Stato faccia il produttore cinematografico? Ma lo Stato deve aiutare le opere prime, secondo me, tutto il resto no. No, quindi soltanto all'inizio. Ma io sono liberista. Vabbè, non è una malattia liberale. Grave. È liberale, è liberista, ce l'ha tutte. Tutte, sì. Senta, Vanzina, ma è vero che avete rotto con De Laurentiis, il produttore, perché durante il film Vacanze di Natale del 2000 cercò di infilare nel cast Monica Lewinsky? No, è vero che lui a un certo punto, ma lui ne dice tante spesso, propose di chiamare Monica Lewinsky, cosa che ci fece sobbalzare. Ma per fare cosa? Ma probabilmente lui aveva in mente una cosa molto ben precisa. Abbiamo soltanto pensato che nel 2000 bisognava smettere di fare i film di Natale, l'abbiamo fatto. Quindi non una rottura ma una scelta, diciamo. Sì. Ma De Laurentiis è più bravo come produttore o come presidente del Napoli? Ma per il momento è stato più bravo come produttore. Il presidente del Napoli secondo me è più difficile. Ma se lo aspettava che facesse il presidente del Napoli? No, quando mi telefonò la mattina dicendomi ho deciso di comprare il Napoli, dissi stai attento, è una cosa pericolosissima e difficilissima. Molto difficile. Perché lui non conosceva molto bene, non conosceva quasi le regole del calcio, e questo è tutto a suo onore. Io invece che ho seguito il calcio tutta la vita, l'ho visto come qualcosa di molto Ma è molto complicato davvero. Molto rischioso, sì. Continua il faccia a faccia dopo la viabilità. X24. Vanzina ha lavorato con Berlusconi e lo conosce bene. Molti dicono che Renzi sia in qualche modo il suo erede, il figlio che avrebbe voluto avere l'erede, diciamo, anche politico. È vero secondo lei o no? No, penso che Berlusconi non avrà eredi perché la sua storia personale è entrata dentro la sua storia politica in maniera così prepotente che nessun altro potrà avere una cosa del genere. Lui è veramente un personaggio da grande commedia seicentesca o settecentesca. Ma pensa che siano affascinati per uno dall'altro Berlusconi e Renzi? Penso che Renzi sicuramente ha capito i meccanismi, probabilmente però non ha il carisma comunque di Berlusconi, nel bene e nel male. Senta, ma lei ha detto che Roma triterà i grillini, quindi Renzi non gli piace tanto. Mi piace moltissimo. Lei ha detto che cosa gli piace di più di Renzi? Mi piace il fatto che essendo nato in una famiglia liberale è riuscito a fare quello che noi liberali speravamo da anni, di far diventare una sinistra italiana una sinistra socialdemocratica, di fatto. Cioè come dice Berlusconi, se mi fossi messo a sinistra avrei evitato tanti guai. Lui forse l'idea della socialdemocrazia non ce l'ha proprio. Ma insomma, credo che, a mio modestissimo parere, la zavorra che ha avuto l'Italia per tanti anni è stata una presenza molto forte di un partito comunista, mentre negli altri paesi europei c'era una socialdemocrazia che aveva già risolto il problema. Senta, lei ha detto che Roma triterà i grillini come ha già fatto con Monti e con i leghisti. Anche Renzi farà la stessa fine secondo lei? No, Renzi ha il consenso, secondo me, trasversale, è diverso. E poi, secondo me, sì, la sua, il pericolo di Renzi è la sovraesposizione. Non è certamente uno che frequenta i salotti o si mischia di cose del genere, assolutamente. Quindi non è quel rischio lì, è barbaro in quello. No, no. E poi viene da Firenze, che è una città particolare, che si sente anche un po' superiore a Roma. E questo lo aiuta lo a aiuta. Stare lontano. Sì. Senta, ma assomiglia Renzi a qualche personaggio dei suoi film? No, assolutamente. Noi il cinema in questo momento su Renzi ancora non ha messo un occhio giusto, forse non va neanche raccontato, bisogna ancora capirlo. Ma nella nuova generazione di politici, uomini e donne, a parte Renzi, c'è qualche faccia da cinema? Ma non sono molto interessanti. Credo che le facce del cinema sono, anche quando il cinema in un momento basso, ha sempre delle facce un po' particolari. In questo momento la politica non ne ha. E il cinema ne ha invece, secondo lei? Sì, qualche faccia ce l'ha. Senta, essere figlio di Steno è stato un problema, un vantaggio? È stato un grandissimo vantaggio. Ma non tanto perché faceva il regista, perché era una persona strepitosa lui. Senta, ma chi la colpiva di più tra gli intellettuali e gli artisti che frequentavano casa vostra, a parte Brigitte Bardot? Nico? Sicuramente Ennio Flaiano. E perché? Perché era il più intelligente di tutti e si capiva. Però la cosa fantastica è che papà, che era molto amico suo, diceva: Longanesi avrebbe avuto la stessa risposta che ho dato io, dicendo il più intelligente di tutti, di fronte a Longanesi, che non ho avuto il piacere di conoscere bene, l'ho visto qualche volta. Senta, ma chi le piace di più? Diceva che ci sono facce. Chi le piace di più fra i comici giovani? Checco Zalone. Perché? Perché è spiritoso. E per essere molto. Un comico bisogna essere spiritosi. E poi è veramente particolare. Molto. Senta, Tarantino dice che il cinema italiano è deprimente. Lei è d'accordo oggi? Sì. Sì, oggi è deprimente. Sì. E perché, secondo lei? Perché ma è un ciclo, mancano storie o che cosa? Perché rifà sempre lo stesso film. Ma è la tendenza del successo? No, è una miopia in questo momento, non ci sono più i grandi produttori, questo è il grande problema, cioè ci sono dei manager di grandi società che gestiscono il cinema, ma in realtà il grande produttore è quello che aveva l'intuizione, che dava carta bianca all'intelligenza, perché stavolta capiva l'intelligenza, ma questo poi rischiava i soldi suoi. Sì, e questo capita anche alla televisione, purtroppo. Senta, ma le è mai capitato che un attore si rifiutasse di una parte che gli aveva proposto? La parte importante, naturalmente. Sì, qualche volta è successo, non in maniera traumatica, vuol dire non c'è stato mai un gran rifiuto. Ma è il più bravo con cui ha lavorato? Gian Maria Volonté. Ma si aspettava che Ferrero, Viperetta, diciamo il produttore cinematografico soprannominato Viperetta, adesso è presidente della Sampdoria e è diventato un personaggio molto popolare, se l'aspettava? Beh, nel momento in cui è diventato presidente immaginavo che alla prima intervista diventava un cover meraviglioso di qualsiasi giornale, di qualsiasi trasmissione. C'aveva tutte le caratteristiche? No, ce le ha, perché, certo. Perché sicuramente è qualcosa di diverso, ecco. Senta, Vanzina, uno che invece la popolarità, anche i soldi, li ha persi, è stato Cecchi Gori. Una parabola triste. Molto triste e anche ingiusta. Credo che quando si riscriverà la storia del declino di Cecchi Gori verranno fuori delle verità diverse. Ha subito violenza. Io penso che, come molte persone in questo paese che vanno dalla politica al cinema, e in questo caso anche a un cinema imprenditoriale, c'è stato un complotto intorno al... E chi ha tirato le fila del complotto? Beh, insomma, c'era gente che aveva interesse a eliminarlo e a prendere tutto quello che lui aveva. Mi dice chi? Si sa. Si sa. Vabbè, io non lo so, ma insomma. Senta, ma è tanto difficile conservare il successo? È molto difficile se uno pensa che è importante, sì. Ma la situazione italiana di oggi fa più piangere o più ridere? Un po' me l'ha detto, eh? Beh sì, ma non è che fa piangere, ma non fa neanche tanto ridere. È la conseguenza di un degrado che si è lasciato andare, diciamo. È un paese che veramente non ha più speranza in questo momento, mi sembra. Tutti i giorni quello che leggo, quello che scrivono, quello che sento. Beh, quando si tocca al fondo poi si rimbalza in qualche modo. Sì, ma questa volta non c'è più quel lato di commedia, non ti viene più neanche voglia di farci lo spiritoso sopra. Perché la crisi dura da troppo tempo, sì. Ma perché non è buffa, le cose buffe sono... È tragica, sì. È tragica. Ma lei dice che la politica ormai è avanspettacolo, ho letto. Ma è perché ha vinto la televisione e ha imposto le sue regole, eh? No, perché probabilmente gli attori di questa grande commedia della politica non hanno dei riferimenti alti, ma si limitano a guardare qualcosa di piuttosto basso. E lei cosa guarda in televisione, per esempio? Il calcio, guardo qualche show in politica e molti animali. Molti animali. Gheo in Gheo è il suo programma. No, Gheo in Gheo, insomma, no, è bello. National Geographic di più. Senta, ma le serie televisive di oggi, no? Lost, Sopranos, Gomorra, insomma, quante ne vuole? Sono la nuova letteratura in qualche modo? Sono un modo per cercare di mantenere viva una letteratura che era quella del racconto. Il cinema lo sta destrutturando questo qua, per cui in questo momento è l'ultima grande frontiera di una cultura che sta scomparendo. Ecco, però oggi tutti i grandi attori, sceneggiatori di cinema, anche di Hollywood, fanno le serie televisive. Lei le ha fatte in passato, non le fa più? Ma in questo momento la televisione in Italia è piuttosto bloccata su un duopolio difficile. Vabbè, aperture da qualche parte. Sì, Sky, adesso con Sky si è aperto, però vede, credo che questa grande corsa, questa rincorsa di tutti verso la televisione. No, di ma un le certo serie, tipo, io sto parlando proprio delle serie, che sono una cosa particolare. Credo che sia che nasce dal fatto che in questo momento il cinema, quello diciamo più istituzionale, non è molto libero. Per cui invece nelle serie televisive c'è più libertà. Quelle americane soprattutto c'è molta più libertà. Sì. Ma c'è un film nel cassetto che vorrebbe fare? Sì, l'unico, ma io non guardi, ne ho scritti 100 di film, per cui sarei uno stupido a dire ho dei sogni nel cassetto, ho fatto un po' quello che volevo. Ha fatto tutto quello che voleva. Non tutto, insomma. Mi piacerebbe moltissimo insieme a mio fratello di fare un western all'italiana, uno spaghetti western oggi. Senta, ma se dovesse scrivere una voce in un'antologia... Ivan Zina, cosa scriverebbe? Cosa le piacerebbe che ci fosse scritto? Hanno raccontato un pochino questo paese. Cioè toccherà anche a voi essere riscoperti come grandi narratori del costume, disprezzati dalla critica, adorati dal pubblico, come è capitato a parecchi. No, mi dispiace dirlo, ma siamo già stati riscoperti, ed è peggio. Beh, da vivi è meglio però forse, no? Senta, ma in 40 anni di lavoro lei e suo fratello non avete mai litigato? Sì, una volta abbiamo litigato, ma aveva ragione lui. Sì, per la marmellata, per cosa? Perché me ne ero andato di casa. Ah. E poi sono tornato. E il segreto di questo rapporto qual è? L'ultima domanda. Che io lo reputo molto intelligente e tutte le volte che vado a lavorare con lui ho la sensazione di stare con una persona di un certo valore serio che conosce quello che fa. E penso che lui è la stessa cosa per me.